tutto il cortile pieno di materiale, il locale autoclave hanno messo un centinaio di bidoni di collanti, di tinte, non so, tutta roba nuova, hanno riempito tutto lì e ce ne sono andati. Abbiamo i sacchi di quelli che usano loro per buttare via la roba, tutti i sacchi pieni, hanno lasciato poi uno di quei cassoni grandi che poi caricano sul camion di tegole, perché hanno fatto solo uno spiovente. Noi abbiamo 5 spioventi del tetto, ne hanno fatto solo uno, mancano altri 4 spioventi, quindi devono smantellare le vecchie tegole, fare l'impermeabilizzazione sotto e rimettere le tegole. Loro dice che quella lavorazione la faranno in 20 giorni e poi si dedicheranno al resto della facciata, e poi praticamente abbiamo i terrazzini che però sono da rifare, e ci hanno trovato un'altra ditta che praticamente ci fa i terrazzini, però quelli ce li dobbiamo pagare noi, capito? Perché sono da impermeabilizzare, smantellare il pavimento, insomma lavori ce ne sono sempre, dobbiamo sganciare anche un po' di quattrini, capito già? Infatti gratis gratis non fanno niente, no? Ci sono le cose che te le fanno, certe cose non te le fanno, non sono comprese. Ma io so che la parte esterna della facciata non te lo danno al 110% per la parte esterna, o sbaglio? No, tutta la facciata hanno fatto il cappotto, capito? E praticamente è uno strato che mettono e poi gli mettono l'intonacchino, poi un altro strato e poi tingono. Quello fanno tutto, esternamente fanno tutto, è compreso nel 110, è compreso tutto il tetto, capito, l'impianto fotovoltaico, poi a noi dovrebbero cambiare l'ascensore e poi devono cambiare tutti gli infissi, capito? Quello riguarda il 110%, invece l'ascensore riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, che comunque è le detrazioni al 110%, perché il nostro ascensore è di quelli vecchi e quindi non entra una sedia a rotelle, a due porte, apri la prima, poi ci sono le altre, e invece devono mettere quelli nuovi che hanno lo stantuffo, non so, idraulico, invece i nostri che abbiamo sono quelli a fune, ancora i vecchi ascensori, capito? Quindi in teoria di lavorazione già ne hanno da fare, e siccome devono cambiare anche le porte, le devono ingrandire, quindi devono lavorare anche internamente nei corridoi, capito, nei piani, perché devono allargare le porte dell'ascensore, metterle nuove, poi cambiare tutta la cabina, e lavorazione ne hanno, capito? Il problema è che se non vengono gli operai, però non si fa niente. Il più brutto è quando non cambiare gli infissi, che ci vuole sempre qualcuno dentro casa, lì non puoi lasciare la casa libera a loro, capito? Quando cambiano gli infissi ci vuole sempre qualcuno che li controlla. Sì, no, per quello non ho problemi, perché comunque qualcuno a casa c'è sempre, no? A parte in questo periodo di ferie, che magari io ci sono adesso perché sono libero, però capito, loro sono in giro, e se io avessi da lavorare e oggi vengono a cambiarmi gli infissi non ci sarebbe nessuno, però finite il periodo di ferie già c'è mio figlio, adesso è rientrata anche mia figlia, quindi una persona ci sarà sempre a casa, o c'è mia moglie, capito? Perché questi lavorano anche il sabato e la domenica, hanno detto così, per cui mia moglie c'ha il sabato libero e la domenica, quindi se dovessero lavorare sabato e domenica c'è sempre mia moglie, poi tutti gli altri giorni c'è mio figlio o mia figlia quando di pomeriggio che non va a scuola, già c'è lei nelle ore, diciamo, di lavori, quindi problemi di quel tipo io non ne ho, capito? Spero che prima dell'inverno, prima dell'autunno, che cambino tutti gli infissi. Adesso il 28, che è domani dovrebbero venire a prendermi le misure degli infissi, e così chiedo a questa ditta quanto tempo impiegano a farli tutti quanti, a piazzarli. Ho capito. Vabbè. Ma penso che facciano in fretta, se si mettono in 2-3, io so di amici che sono andato una squadra, addirittura in casa sua, hanno cambiato gli infissi in una giornata, hanno tolto in vecchia, hanno messo i nuovi, una squadra. e uno faceva una cosa e lo faceva l'altra. Ho capito, mamma mia. Spero solo di, insomma, di uscirne bene da questa cosa del 110 come condominio, insomma. Quindi c'è una riunione condominiale, mamma mia, e non ha giocato di andare. Approvazione del bilancio di 3 anni, perché c'era un bilancio bloccato. Adesso chissà cosa ci dirà. Abbiamo anche una riunione di condominio, ha detto che la fa prima di andarsene in ferie l'amministratore, che però verrà giù nell'androne per non starci lì a fare la convocazione, a mandarci da qualche parte. Anche qua stasera lo fanno prima, come prima cosa nell'androne e poi nella sua sede dove c'è l'ufficio lui. Ma ne ho poca voglia, c'è una barata da controllare di fondi e di cose da controllare, per carità, non ho nessuna voglia di stare a cervellare. Che poi questi bilanci, a quello vanno bene, all'altro vanno bene, quello ci ha fatto, ci ha messo l'avvocato perché dice che è stato sbagliato il conto dell'acqua, cioè dobbiamo pagarci l'avvocato anche noi perché non vuol sapere di trovare un punto di incontro, niente, ha detto che ci vediamo in tribunale, questo e quell'altro, di quelli che ci vogliono marciare. L'altro che riperde l'acqua dal terrazzo, che vuole subito, cioè non si paga più il condominio da solo, c'è sempre qualche cosa in più da pagare. Insomma, sempre da pagare. Noi, per quanto riguarda il consumo dell'acqua, siamo fortunati in questo condominio perché abbiamo il pozzo, per cui usiamo l'acqua del pozzo e non quella della rete, quindi a Banoa, diciamo, le bollette che ci manda sono praticamente pari allo zero, capito? E ogni tanto facciamo un minimo di consumo perché a Banoa possa emettere la bolletta, capito? Quindi blocchiamo il pozzo e magari facciamo entrare acqua della rete per un paio di giorni nei serbatoi, dopodiché richiudiamo e riattiviamo il pozzo, e quindi acqua ne abbiamo a volontà. E voi vi potete anche scollegare dalla rete urbana e usare solo quella del pozzo, volete? Adesso stavo chattando con mia moglie, dice che ci hanno i piedi gonfi, le bolle camminando a Roma, e ieri mia moglie gli ho detto riposatevi ogni tanto, mettete scarpe comode, e lei mi ha scritto sempre verdi, e adesso mi stava scrivendo, dice siamo rientrati, siamo crepati, abbiamo i piedi gonfi, le bolle ai piedi, e io gli ho scritto sempre verdi, ho detto come mi hai scritto ieri. Anche io facevo così, quando andavo a Roma tornavo sempre con i piedi gonfi. Noi praticamente siamo andati la prima volta in viaggio di nozze, siamo stati lì a Roma, eravamo dalla zia di mia moglie, praticamente ci ha ospitato lì, però a noi non ci piaceva mangiare così da lì, volevamo andare a girare, andare al ristorante a mangiare, stare un po' tranquilli. Un giorno siamo andati prima al ristorante, abbiamo trovato questo ristorante sano, l'abbiamo mangiato, ritorniamo a casa e lì c'era preparato la cena. Mi ho preparato? Io, no, non è possibile. Io dice, sì, io non ho voglia di mangiare, non mi dire così, ci ho messo tutta la sera per farmi la cena. E abbiamo dovuto mangiare 2 volte, ce ne stavo uscendo dagli occhi. Ieri mia moglie mi ha detto che sono andati in un ristorante a mangiare e praticamente hanno mangiato una carbonara che era ottima, e praticamente il cuoco però era sardo, capito? E mi ha mandato le fotografie dei piatti, dice bella, era cremosa, sì, c'aveva il colore giallo dell'uovo, il pepe, a Roma quelle cose già le cucinano bene, già le sanno fare bene, e praticamente hanno mangiato la pasta alla carbonara, dice che hanno ordinato da bere acqua, perché alcolici non ne bevono loro, acqua, Coca-Cola, praticamente praticamente poi si hanno mangiato il dolce, gli ha portato anche il pane, eccetera. In quattro hanno pagato 76 euro, gli ha fatto lo sconto perché erano sardi. Sì, non è venuto nulla, dai. Sono andati bene. Esatto, e l'hanno mangiata praticamente nel quartiere di Trastevere, capito? Perché stavano tornando dalla zona di Castel Sant'Angelo, in quella zona lì hanno detto che sono andati. Invece oggi hanno mangiato al quartiere ebraico, che lì è pieno di locali, spaghetterie, e si mangia bene e si paga pochissimo. Lo stesso oggi hanno speso un centinaio di euro per pranzo e dice che gli hanno dato un sacco di roba da mangiare, non so cosa hanno preso. Comunque in Italia, diciamo, se vai in giro non hai, diciamo, grossi problemi a trovare roba buona da mangiare, anche a spendere poco. Considera che sono in quattro loro e quindi quello che hanno speso è poco e niente. È una cifra risuria. Se vai qua a mangiare, ti parlo il giorno del mio compleanno, eravamo in due, in quattro, mi è venuto sulle 180 euro, abbiamo mangiato vabbè, roba di mare, roba così, però 180 euro in quattro. Sì, io il 14 luglio, era il compleanno di mia moglie, siamo andati da Tiffany, dove c'è la terrazza all'aperto su a Carbonazzi. In quattro abbiamo speso 148 euro, io ho preso una grigliata mista, poi eravamo in quattro, mia moglie ha preso spaghetti alle vongole eccetera, io avevo preso anche un antipasto di mare prima, poi mio figlio e mia figlia, che sono molto tradizionali, loro hanno preso ravioli, mio figlio non mi ricordo che tipo di pasta ha preso, poi avevamo l'ospite che lo stesso ha preso un'insalata con un filetto alla griglia, insomma, poi abbiamo preso il dolce, l'acqua, birra, insomma, Coca-Cola, 140 e qualcosa abbiamo pagato ed eravamo in quattro. Secondo dove vai mangi anche di più e paghi di meno. Allora io sono andato praticamente in un ristorante a Porto Torres dove conosco i proprietari e gli ho detto: ascolta, a me interessa roba di mare, e lei mi ha detto: lasci fare a me e fai tu. E poi mi ha portato sei praticamente antipasti di mare all'inizio, sei antipasti, ma ci ha servito bene, abbiamo mangiato il riso con i frutti di mare, poi scampi, gamberi eccetera eccetera, poi dolci, tutto quanto ci è venuto 180 euro, vabbè, mi sono assustato, è cassata la cassa, comunque mi ha fatto piacere perché diciamo era il mio compleanno e siamo andati io, miei figli e la mia ex moglie per stare tutti insieme e siamo andati tutti insieme. Ho capito. Invece quando è? Sarà un mese fa circa, a fine giugno, siamo andati a, proprio perché abbiamo questo ospite dell'Australia, a visitare il Nuraghe e Santo Antine, poi le grotte di Santo le grotte di Bonorvano, Sant'Andrea Brius, ci sono gli scavi di quella sorgente romana che hanno trovato da vedere, che sono molto interessanti, in località Santa Lucia, sempre lì vicino a Torralba, no? Perché da Torralba poi vai subito vicino al confine, alla piana di Santa Lucia, che è comune di Bonorva, ci sono le grotte di Sant'Andrea Brius, nella piana di Santa Lucia, e da lì poi c'è la stradina bianca che ti porta a un agriturismo che si chiama Sasabilas, che è di quest'Antonello Porcu, no? Arriviamo là, era sabato, e tra una cosa e l'altra era mezzogiorno e mezzo, ho detto: mi sa che telefono Antonello, ho detto se... Ho detto, ce ne andiamo a mangiare all'agriturismo, però non avevamo prenotato. Lo chiamo, mi risponde e mi dice, purtroppo oggi non abbiamo posto perché abbiamo le cresime, ci avevano le cresime, quindi avevano tutto prenotato. E Guarda, mi dispiace Carlo, che so che quando passi da queste parti vieni sempre da noi, se vuoi, però mi dispiace, dove sei? Ho detto guarda, sono qua alle grotte di Sant'Andrea Abrius, ho detto, quindi, e quindi già sei in zona, allora vieni, ti offro un aperitivo, però non ti garantisco niente, perché praticamente arriviamo lì dalle grotte, sono poche centinaia di metri, no? C'è questa strada che ti porta a Mariani, si chiama, una località di montagna che c'è tra Bonorva e Foresta Burgos, e praticamente andiamo lì, dice no, vi offro l'aperitivo, venite, ci porta nel retro, ha chiamato due camerieri, dice glielo portate un po' di aperitivo, ci ha portato questo tagliere dove c'era di tutto e di più, cose con ricotta, col miele, con i fichi, c'era salsiccia, prosciutto locale, ci ha portato un quarto di vino bianco, gli ha detto guarda vino bianco, no bevilo questo, guarda è garantito, non ti fa niente. Dopo 5 minuti gli ho detto ascolta, portane un altro quarto, che quello è già partito, era bello fresco. Praticamente con questo aperitivo che lui ci ha invitato, abbiamo pranzato, perché talmente ci ha dato tanta roba che abbiamo pranzato, ci ha messo dietro, no? All'ombra, ci ha messo un tavolino, si è fermato lui a chiacchierare, è stata una mezz'ora con noi. Poi gli ho detto Antone, dimmi quanto, no, questo è un aperitivo che vi ho invitato io. E praticamente ce ne siamo andati con la pancia piena, avevamo bevuto, mangiato, siamo rimasti lì un'oretta, ce ne siamo andati, non ho pagato niente. Così già va bene, no? Già. Beh, è stato squittare, dai, ha cercato di... Sì, esatto. Non è sempre così, però quando spesso ci vado lì da quelle parti che ho qualche persona da portare, ci fermiamo a mangiare, quasi sempre andiamo da lui, quindi è almeno 10 anni che lui ha aperto l'agriturismo e saranno 10 anni che ci andiamo almeno 2-3 volte l'anno, e quindi già ci conosce, poi lo conosco personalmente questo Antonello, mi ha detto quando passi da queste parti vieni sempre, non ti preoccupare, non te ne andrai mai senza niente, e così è stato, dai, è stato gentile, fate che mia moglie, ma gliel'hai chiesto quanto dobbiamo pagare? Mi ha detto che era un aperitivo quello che ce l'ha offerto lui. Nel giro di un'oretta ce ne siamo andati, siamo rientrati intorno alle 3 a Sassari e ci siamo buttati a letto, capito, perché stava facendo caldo in quei giorni. Ho capito, vabbè, cioè se ce n'è più bene, caro, Direi proprio di sì. Oh, già, stavo guardando l'ora, sono le 7:10. Adesso mi preparo la cena, non so tu se sei già a posto con la cena, ho del pollo da fare perché non lo voglio lasciare troppo in frigo, c'è da 2 giorni, mi sa che me lo faccio con un po' di cipolla, vino bianco, e quindi ci vuole tempo a cucinarlo, dai, per le 8 dovrei essere a cena, seduto a tavola. No, io Carlo ho fatto il riso, la pranzo ne ho fatto troppo, me ne ho abbassato un po', quando lascio a cena me lo scaldo un pochino, non tanto perché adesso c'è caldo, mi mangio quel riso lì, poi se ne ho voglia mi faccio una caprese, se ho capuccio, non è che non ne ho voglia di mangiare tanto questo periodo, io questo periodo mangio molto poco. Vabbè Carlo, dai, ti lascio, ci sentiamo. Stammi bene, mi ha fatto piacere sentirti, poi ti sentire spesso, dai. Cioè, al limite mandami un messaggio se vuoi entrare, cosa che ci sei, che ci sono a casa entro, dai. Ci sentiamo, ciao Carlo, ciao. Ciao Gianni, grazie della chiacchierata per stasera. Eravamo da tanto che non ci sentivamo, quindi 2 chiacchiere ce le siamo fatte, dai, così ti libero. Ci sentiamo alle prossime. Sì, senz'altro, nel caso se chiama non c'è nessuno, già ti mando un messaggio e ci sentiamo sul 10. Alle prossime, buon tutto Gianni, a risentirci. Buona serata. Ciao.